Europa 24. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi. La guerra in Siria e i rapporti con l'Unione Europea sono al centro della visita del presidente turco Erdogan a Bruxelles. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è oggi a Bruxelles, dove incontrerà tra gli altri il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Il momento è delicato. Per l'Unione Europea la Turchia è un partner indispensabile, ma complicato. I due uomini politici devono parlare della crisi siriana e di come collaborare per contrastare l'arrivo di migliaia di rifugiati in Europa. La Commissione europea ha promesso aiuti alla Turchia per 1 miliardo di euro. Ankara vorrà strappare un aiuto più generoso, pur di meglio gestire i campi profughi che si stanno moltiplicando nel paese. Sui colloqui di oggi peseranno le infinite discussioni sull'ingresso della Turchia nell'Unione. Il tema rimane in agenda, ma c'è ormai molta freddezza da parte di numerosi paesi europei, preoccupati dalla deriva nazionalista del paese. L'atteggiamento ambivalente dell'Europa, naturalmente, non piace all'establishment turco. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. I paesi terzi che non hanno accordi di riammissione con l'Unione Europea e con i suoi stati membri dovranno comunque accettare il rimpatrio dei loro cittadini se vorranno usufruire degli aiuti europei. Così poco fa alcune fonti della presidenza dell'Unione Europea. Dopo il voto in Portogallo cresce l'instabilità politica, ha vinto il centrodestra ma non è maggioranza assoluta. In un Portogallo provato dalle misure imposte dalla Troica, i cittadini non hanno punito il governo che le ha portate avanti e anzi gli hanno dato quasi la maggioranza dei suoi voti. Ha vinto il partito socialdemocratico del premier uscente Pedro Passos Coelho e ha vinto le prime elezioni dopo il salvataggio del 2011, dopo 4 anni di sacrifici imposti al paese per affrontare la crisi. La partecipazione al voto è stata in crescita rispetto alle elezioni politiche del 2011, anche se c'è stata astensione tra i 9,6 milioni di portoghesi chiamati alle urne, nonostante il maltempo e le partite di campionato di calcio. Gli ultimi dati sulla ripresa economica hanno aiutato nei sondaggi Coelho, che otterrebbe per poco la maggioranza assoluta oppure avrebbe due strade, un governo di minoranza o una grande coalizione con il Partito Socialista, ipotesi gradita a Bruxelles. Il nodo economico sono le politiche espansive dopo i segnali di ripresa, visto l'altissimo debito pubblico, 128% rapportato al PIL. Sconfitto il Partito Socialista, che paga divisioni interne e casi di corruzione. Sorpresa il voto del 10% del blocco de Scherda, una Siriza portoghese. In ogni caso a gennaio ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica, per cui i cittadini dovrebbero non tornare alle urne prima di un anno. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono 19 gli Stati membri, compresa l'Italia, che hanno notificato alla Commissione Europea a Bruxelles entro la scadenza prevista la richiesta di esentare il proprio territorio nazionale tutto in parte dalla coltivazione di piante geneticamente modificate, cioè oggi autorizzate a livello europeo. L'opportunità di dichiarare il proprio paese o le proprie regioni esenti da OGM immediatamente con il possibile accordo delle società produttrici delle piante transgeniche scadeva il 3 di ottobre per quanto riguarda le 4 varietà di mais geneticamente modificato già approvate per la coltivazione nell'Unione Europea. Le 14:05 vi ha parlato Daniele Biacchessi, vi ricordo Europa 24 torna questa sera in effetto notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.